Ma adesso è il 39, è il 39. E quello lì è. C'è il bip, non lo senti che qua non si può togliere. Ma lo so, è come il tornado, più o meno il design è lo stesso anche, cambia un pochino, cambia la colorazione secondo me solo. Eh sì, lo so, come ho detto anche il tornado ha il Roger Bip finale che non si può togliere. E infatti, lo lasciamo così, tanto è omologato questo, è quello omologato, non quello con 40 canali solo. Ho capito, sì, quello omologato. Io, tipo, la verità non ne ho molti omologati, non avrò una decina omologate rispetto a tutti gli altri. Le stazioni base non ce n'è una omologata. I baracchini sì, le stazioni base no. E infatti, ma è sempre Migliavello l'omologato, capito? Che adesso stanno controllando, a me mi devono controllare, io lo so già perché disturbo le televisioni di un palazzo qua vicino. Ah, ho capito, meno male che ti dico, io sono qui in campagna, non ho nessun problema. Se ti vengono a controllare ti puoi rifugiare nel bunker di Figheddu. Magari potessi. E c'ho l'antenna lì che se ne sta ridendo, una Mantova 5 appena comprata l'avevo, cosa ci sono stato? 2 mesi e poi me ne sono andato perché mi sono sposato e sono in casa di mia moglie praticamente. Ah, ho capito, e se la stai vedendo veramente, quant'era su 12 metri di palo? Sì, a 2 verghe da 6 metri sono, una che entra dentro l'altra, capito? E c'è la Mantova 5 che se ne sta ridendo. Ho capito, sì, quella è una bella antenna 1.5 turbo che non si trovano più, meno male io ho trovato, come dire, un po' una sostituta, dicono così, che la Blizzard, dicono che è anche la versione migliore della Mantova, boh. E meglio così. Oh, la Mantova già rendeva, io arrivavo forte dappertutto da dove sono io. Già lo so che ha le buone prestazioni di quelle antenne. Comunque, cioè, ieri stavo parlando con un portoghese, si è messo questo dicendo non ti sente nessuno, butta via l'antenna, ed era portoghese, se mi stava parlando in italiano, comprati 4 orecchie, ma scemo. Boh, non lo so. E fregatene, Riccardi, ci sono quelle persone stupide. E lo so, ma che problema avevi se mi sentiva, come faceva a dirmi non ti sente nessuno, se stavo parlando con gli altri portoghesi, boh, non lo capisco. È perché era un cretino quello lì. L'ho visto, mi ha proprio parlato in italiano, non ti sente nessuno, butta via quell'antenna. Avevo anche un'antenna, l'ho comprata anche da poco e sta andando bene, questo scemo, mezzo fuso. E infatti, io su in campagna già avevo una bella stazione, in campagna mi divertivo, mi costruivo le antenne, facevo un sacco di attività. Quando ero scatto, l'ho capito. Me le costruivo io le antenne. C'è anche un'antenna filare multibanda su, che va da tutte le parti, anche in 27. C'ho altre due antenne. Un dipolo, avevo fatto un dipolo per le bande di su, che funzionava nelle bande di su quel dipolo. E ci deve essere ancora lì. E arrivavo, facevo di ex con quel dipolo. Ah, ho capito, io dipolo mi faccio sentire solo qui, dipende dalla direzione comunque. Ma in campagna hai anche apparecchiatura o è rimasta solo l'antenna? No, solo l'antenna, ma avevo venduto tutto. Mi avevo. Se c'avevo il Turner più 2, il Turner più 3, l'MB più 4, poi avevo lo Shure, ho venduto tutto, avevo il Galaxy Saturn Echo, c'avevo l'857 della Iaesu, avevo il 440 della Kenwood, il President Lincoln, Cosa ha altri apparecchi, Iaesu e Kenwood, per le V e le U? Ascoltavo da tutte le parti praticamente. Ho capito, sì, già era una bella apparecchiatura, avevi un bel di roba. Cioè, l'hai venduta tutta, non hai più niente. No, c'ho questi due omologati e qua. Poi non posso ottenere altra cosa, se mi trovano altra cosa qua. Ah, c'ho un ricevitore della Iaesu qua, di quelli scanner portatili mi. Ah, ho capito, sì, gli scanner, che cosa fa da fino a 1300? Eia, c'è anche l'SSB, c'ha tutto questo ricevitore. Lo so, sono belli per ascoltare tipo frequenze nautiche, oppure ascoltare soccorso, vigilanza. E ascolti tutto, diciamo così. Va bene, e basta, non c'ho altro qua. C'avevo tre alimentatori, c'avevo uno da 40 ampere che l'avevo modificato perché se no non ce la faceva tirare il 440, poi c'avevo un altro da 30, e qua la stazione è su Facebook, solo che io non ho il tuo indirizzo, se no l'avresti visto. E a Natalì mi stanno chiamando per svuotare la piscina, ci sentiamo più tardi. Ok, ciao Riccardino, alle prossime. C'è qualcun altro sul canale 10? Alfa 1, ci sei? Alfa 1, ci sei? Natalino, ci sei? Attenzione al canale 10, chi c'è sul canale 10, 27075? Ciao Riccardino, ciao Robè. Accesso adesso, chi c'è, qualcuno? Era Natalino, mi sono allontanato 5 minuti e l'ho chiamato e non c'era più. Natale, cosa sei? Cosa stai uscendo, Ricca? Tappa più 2. No, non l'ho neanche sentito, non ho messo neanche a cosa. Sono qua, non ti ho risposto perché stavo mettendo a posto roba, che sto cercando il patentino marino, quello marino. E lo mio Natale. Ah sì, pesci vendolo, Natale. Pesci vendolo sono, perché? Grazie, patentino di che cosa? Imbarcato, cosa sei? Quello per il radiotelefonista di bordo. Ah, il coso per utilizzare il WHF in mare. Sì signore. Che si dice di bello oggi? Sì, che si dice? Ho trovato solo a Riccardino qua. E boh, tutti orecchie di porco saranno. Lo so, capita. Poi piano piano si svegliano dagli orecchie di porco e entra qualcuno. Ma speriamo di sì. Qualche portante o qualcuno che non sta uscendo, no? Che non sia Capri, attenzione Capri, tu sì. Qualcuno che non sta uscendo, probabilmente, che c'è, ora c'è la batteria scarica del coso, del mic. Vabbè, ma a te quanto ti arriva, come dire, questa portante? 9 più 5. Ah, qua deve essere più forte, qua è 9 più 20. Allora non è Capri, Mario è più dalle parti tue. Penso proprio di sì. Non lo so, Luca. No, Luca no. Non lo so, vabbè. Non è Luca, a me che non sia Antonio Riserva, che ieri c'aveva problemi sul baracchino. Può darsi. Il segnale sembrerebbe il suo, Capri è più forte, arriva, non lo so. Va bene. Cosa volevo dire? Facciamo un'altra chiamata sul 10, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare. Attenzione, canale 10 vuole entrare, senza propaganda non è più tardi, comunque è prevista acqua, se dovete fare qualcosa fatelo in anticipo, che qualche schizzata di acqua verso tarda mattinata è prevista. Acqua, pioggia. Eia, chi è che ha chiamato? Avanti il break. È Eugenio che fine ha fatto, l'ho sentito ieri, cos'era? No, ieri, era lunedì, ieri, doveva portarmi la moto per fare delle rifiniture, poi dice che sono furia, ma che non si è andato col capo. L'ho sentito ieri, mi ha detto, l'ho sentito ieri via telefono. Ma dove era? Fuori Porto Toro? Era a Porto Corallo, ha detto si è venduto tutto, non ha più neanche un baracchino, ce l'ha solo nel furgone. Ma dove? Sì, si è venduto tutto, non ha più niente. Aspetta, c'è qualcuno che chiama, avanti il break. avanti il break, vabbè non vuole entrare, fa break e poi non entra. Ok, vai Natale. Chi sei? Angelino? Chi è che chiama Riccardino? Avanti. Hai sentito Riccardino, ti hanno chiamato? Sì, un attimo, continuate, sono qui, stavo prendendo delle chiavi inglesi per sistemare la piscina, continuate, sono qui. Avanti, chi chiama? Vabbè, non ha gara, vabbè. Ok, Natale, quindi cosa sta usando? Il 3009? Sì, sto usando il 3009. No, ti ascolto bene, bella chiara, pulita la modulazione. Dimmi una cosa, ma il bip è inseribile o disinseribile? Purtroppo non si può disinserire. No, già è piacevole, dai, almeno quando magari i segnali sono bassi sai che ha mollato la comunicazione. A me mi è sempre piaciuto il bip. E altri da fastidio, ma vabbè, tanto non lo sento io. No, ci sono quei bip che fanno quelli lunghi sono un po' fastidiosi, ma questo leggero bip già va bene. È uguale a quello di Gianni, quello di Marco, capito? Questo qui. Anche Luca ce l'ha uguale, mi sa. No, va benissimo, è piacevole, niente da dire. Poi me la chiedo di Galvino, guarda mio, si è strozzato il bip, l'unico bip strozzato che abbiamo mai sentito. No, quello però è una che in quinto, ce l'avevo anch'io, quello lì. Gianni Doppio Runcio l'ha avuto, ce l'avevo abbinato col Turner più due da Palmo, quello lì. Quello era un bel apparato, il bip è che aveva disgraziato, guarda, ui ui. Ma era un flusso, non un bip. Ok, cosa ti volevo dire? Forse dopo vado a farmi un giro a prendere aria, perché oggi sono tutto usurato, ho dormito male oggi, mamma mia. Io lo stesso dovevo andare a vedere in macchina se l'avevo staccato il filo dell'alimentazione oppure se c'è qualcuno, per vedere se arriva la 12 volt per quell'omologato, per l'altro piccolino. Vediamo Riccardino se rientra. Basta prenderla e avvitarla alla base ed è a posto. Sono qui già, sto prendendo le chiavi per montare la scaletta. Ah, quindi pure la scaletta a voi, non ti basta fare un salto? No, pure la scaletta abbiamo. Che l'ascensore non te lo sei messo. No, ma a me non interessa la scaletta, io prendo, metto il tavolino davanti alla piscina e faccio un tuffo. Tavolone? Metto un tavolo, praticamente abbiamo fatto una specie di salotto con le poltrone davanti alla piscina. Tiro il tavolo vicino alla piscina e mi tuffo dal tavolo. Ma ti tuffi a pompa o di punta? Dipende. No, di punta lo faccio con lo scivolo, a bomba con il tavolo. Dove se basso tocchi la testa, a me mi è capitato più di una volta in mare, ma la mare mi è andata bene, se no mi spacco il collo. No, si è buttato un amico di 2 metri giusti e non gli è successo niente di punta. Ma a fare il tuffo e salire, ma se ti dai troppo slancio devi stare a testa. Ti trucchi, Samola, su tu, giù mi. Aspetta, ti ho parlato in due, cosa hai parlato? Che secondo come va ti trunchi, Zamola è su tu giù. La molla nel collo, già lo so, a me mi è capitato. Io ho visto amici che sono andati in ospedale, uno si è fatto 3 mesi in ospedale, in trazione. Ehi, già lo so, io pure tuffavo da balai. No, a me guarda, mi piace tanto nuotare, ma tuffare è la cosa che mi piace più di tutte. Babbo tuffava dalla Rocca Grande di Balai. Avanti il break. Sì, mi hai sentito Antonio qua a Città di Sassari, operatore Roberto, in compagnia di mia, di Natalino e di Riccardino, il giovane della frequenza. Ti rilancio di nuovo per i saluti. Avanti Antonio da Lecce. Ciao Lecce, ben ascoltata per la seconda volta, mi fa piacere riascoltarti e ti saluto e passo il cambio per Gio Natale, Alfa 1. Ciao Antonio, io non è che ti ascolti bene ma sono in condizioni precarie, non so se mi ascolti tu. Ascoltato tempo fa, Sì, anche io ti ascolto Santiago 9, radio a momenti 5, a momenti un po' si attena, c'è un po' di QSB, se mi dai anche un rapporto a me di segnale di radio eventuale. Carta, segnale di 8 con questo. Ok, comunque ben risentito per la seconda volta anche a te. Mi hai detto la città è in provincia di Lecce o città Lecce? No, provincia di Lecce, Racale, Roberto Racale. Ok, va bene, perché noi siamo proprio città di Sassari, nord della Sardegna, a circa 15 km dal mare, più o meno, diciamo, l'altezza dell'elevazione sono circa 250 metri, l'apertura è verso il sud Italia in questo caso, dai, va più che bene. Avanti a te Riccardino, forse si è allontanato, riprendi Natale. Ecco, ma non so se mi ha ascoltato l'amico, io lo dicevo basso basso. L'hai ascoltata Natalino, l'amico Antonio, da Lecce, perché Natalino è in condizioni un po' precarie come radiazione di antenna, un po' basso, diciamo l'antenna è proprio al limite delle radiazioni. Avanti, Antonio. Va bene, Natale l'ho ascoltato, c'è molto più riesco a ascoltarlo. Bene, io non so se conosce Calvise o Sassari, non ha detto Luigi, così confermi. No, Alvise. No, sinceramente non lo conosco, non mi dice niente questo nome. Ok, e la tua località è sul mare, sul montagna, dove si trova? Sassari città. Noi siamo Sassari città, però non lo conosco, ma mi hai dato un cognome, puoi ripetere più lentamente, sei nominativo o che cosa, quello che mi hai detto prima? No, sinceramente non mi dice niente, siamo abbastanza qua, come CB, anche se c'è da dire, si sta ripopolando adesso la frequenza, ma è rimasta molto tempo chiusa sul canale 10, il canale monitor di Sassari, ogni tanto si riavvicina qualcuno col discorso del coronavirus, si è riavvicinato qualcuno, però non ce ne sono tanti adesso in attività, almeno non ce ne erano tanti, adesso qualcuno in più c'è. Mentre dalle vostre parti, qual è il canale monitor? Ah, il club di Oristano si è iscritto. Diciamo Oristano è un po' problematico di collegarlo qua da Sassari perché abbiamo una collinetta che ci taglia un pochettino, è capitato veramente, però qualche volta, anche se non è lontanissimo da Sassari, sono circa in linea d'aria saranno 90 km diciamo, però siamo un po' chiusi, cioè abbiamo una collinetta che ci taglia un po'. Sono tornato. Purtroppo questo passaggio si è un po' abbassato la propagation, diciamo se è sceso a 6 la radio è poco comprensibile, sarai 2 massimo 3 di comprensione. Vediamo, riprovo a parlare, vediamo se riusciamo a tirarti meglio. Mi dispiace se in mezzo al QRM non so se mi ascolti, comunque ti rilancio Riccardino, così eventualmente ti saluta lui da parte nostra. Avanti Riccardo per Antonio in provincia di Lecce. Ciao Antonio, ben ascoltato e alle prossime, spero di riascoltarti da Lecce, in provincia di Lecce, e cambio se c'è ancora Zio Natale che mi era allontanato un attimo. Già ci sono, solo che io lo sento in mezzo al QRM, l'amico è incomprensibile, capì? Io lo sento in mezzo al QRM, però l'ho salutato. Ehi, vabbè, ma a me non so se mi sente, capito? Devo fargli quella modifica a questo MB4 per amplificare un po' di più, perché l'apparato non lo tocco, lo lascio così. No, la parola te la posso fare, già va bene la taglia. Ok Antonio, io provo a parlare, non so se mi stai ascoltando, ti saluto, è stato un piacere riascoltarti anche se per breve tempo su questo canale 10 da Sassari, e ti saluto anche da parte degli amici qua, Riccardino e Natalino, e avremo modo magari in situazioni migliori di sentirci con un po' più lungo, dai, ti auguro una buona giornata e una buona giornata di nuovo, dai, ciao ciao, ho detto 2 volte una buona giornata, dai. Avanti Natale. E capita di ti sei confuso nel confonderti. Mi sono ingrovigliato nella confusione. Però se stai pensando ad altre cose, il cervello non ha resettato, per cui ti escono delle parole e dici ma cosa cavolo sto dicendo? Ok, vai Riccardo. Bisognava dirgli buona festa alla Repubblica ad Antonio. Festa alla Repubblica lasciamola perdere, la Repubblica adesso non esiste più in Italia, speriamo che facciano un po' di pulizia di questa mondetta che c'è in giro, dai. Sì, lo so, ma almeno così non facevamo come dire brutte figure che l'abbiamo ripetuto due volte. Ma il bagno te lo sei già fatto in piscina tu, Riccardo? No, sta ancora svuotando, è ancora verde. Adesso sta uscendo tutta l'acqua, la sta pompando nel bosco con la pompa, sta uscendo tutta e stanno pulendo i bordi. Ma come, le pareti sono verniciate o in piastrelle? No, liner. Ma la riprendete la verniciatura o la lasciate quella lì e la lavate e basta? No, è lavabile, gli passiamo questo prodotto, questa acqua ossigenata forte per le pareti, perché costa un bel liner, per quella piscina, tipo farti un preventivo ti costa 400 euro di liner. Ok, già va bene, allora se ne esce di quella vernice lavabile, quella, come si chiama, erasomela, dovrebbe andare bene il prodotto di pulizia. Ho capito, stavo pensando adesso che ho in mano questo microfono, perché lo dovevo mettere dentro, me ne sono dimenticato, vero, questo microfono che ho, quello del K, non è il suo originale, è più moderno questo. Vuoi portatile, il palmare? Sì, il palmare, perché l'ho lasciato qui stanotte e me lo sono ritrovato qui davanti. Come te lo sei ritrovato qui davanti? L'ha toccato qualcuno? No, perché ieri stavo portando il K dentro con il microfono e mi sono dimenticato, mi è caduto alla mano mentre lo stavo prendendo, ma non me ne sono accorto. Il microfono palmare l'ho lasciato qui e oggi l'ho ritrovato qui. E ci stavo pensando a questo microfono e ci stavo dicendo, vero, non è il suo originale. No, assolutamente, non esisteva neanche la Kenwood come marchio all'epoca. Quello era marchiato prima che si chiamasse Kenwood, si chiamava Trio, e poi è stata rilevata. Gli apparecchi sono identici, tipo Sommerkamp con la Yaesu, prima si chiamava Sommerkamp e poi si è trasformata in Yaesu. Quello lì è un microfono di un veicolare per le V o per le U, ce l'ho uguale identico io. Ah, ho capito, lo so, infatti questo non è Kenwood, vabbè è uguale, però è Trio. No, ma proprio un'altra serie di microfoni, quello sarà degli anni 2000, col microfono di lì, diciamo, ormai quell'apparato tu che c'hai è fine anni 80. Ho capito, se l'avranno adattato. No, le connessioni sono uguali, ma naturalmente non c'ha niente a che vedere con quel coso. Il suo è l'M, come si chiama? M43 mi sembra che si chiama, M43. Sì, l'M43 che è diverso, però ho provato ieri con questo, sto facendo prove, infatti non è identico, si vede perché ho provato tutti i tasti, CAL, VFO, MR e PF, non funziona neanche uno, funziona solo per trasmettere. Natalia, a proposito, cosa vuol dire? Nel microfono ci sono il tasto, vabbè, col VFO, MR lo so, PF cosa serve? Sì, è accennamento a più. Non me lo ricordo, l'ho letto da qualche parte, però non me lo ricordo. Forse è per programmare qualche tasto, No, può darsi pure, sinceramente non me lo ricordo, perché anche la Dunisi ce l'ha quella funzione lì, c'ha 3-4 tasti col VFO, MR e PF, se non è per l'ascolta, No, forse è per programmare qualche funzione, qualche tasto funzione. A meno che se non sarà program frequency per programmare le frequenze. No, non me lo ricordo, la verità, dovresti chiederlo a Claudio che dovrebbe saperlo. E io dopo cerco magari su internet o su qualcosa c'è scritto, vabbè, non li ho mai utilizzato mai con le cose. Come sta andando con questo microfono, Natalia? Bene, bene, carissimo. Chi è che diceva carissimo? Luce del mattino, non mi dia carissimo. Anche cosa? Te lo di Emanuele tu? A chi Emanuele? Ponte o Pilato? Sì, il mio vicino di casa. Poverino è morto, ma è una persona troppo in gamba, ma un'educazione, sembrava quando il prete diceva la messa, una tranquillità parlando, quante volte questo ci siamo fatti, ma tantissimo, proprio una persona piacevole da ascoltare, poi era molto molto preparato, lui cosa aveva, un laboratorio? Lui era radiotecnico, Ponzio Pilato, Il figlio Riccardo è ingegnere informatico, addirittura. Io mi costruisco il computer perché l'ho imparato da Riccardo, capito? Tutte le magagne, le cose, ui. No, ma poi usciva anche bene. Lui cosa c'aveva? Un Saturnet, come pare, se non sbaglio. E ne ha avuto poco di roba, anche il 7B aveva della Iaesu. No, ma era molto preparato, diciamo, il tecnico di vecchia generazione sulle valvole, quelle cose lì, abbiamo fatto delle belle parlate, dei QSO, ti dava delle belle informazioni alla persona. A me è dispiaciuto quando mi hanno detto, oh vabbè, anziano, quanti anni c'aveva lui? Anziano era, lui lo sa Giulio, perché erano molto amici con Giulia. E quello lì andava a aggiustare la televisione a mia nonna. Mi ricordo ancora, andava a seguire, giambava la valvola, boom, e andava a pulcio. Sì, già lo so, era bravo, una brava persona. È stata una perdita qua nella frequenza, perché quando ascolti persone preparate c'è sempre da imparare, dai. Ok, avanti di nuovo Riccardo. A proposito Baracchini, sempre mi dispiace che Eugenio si è venduto tutto, non può più trasmettere. Già si riprende tutto Eugenio, già lo conosco, vedrai cosa ne esce da Eugenio, dai, poi farà schicchiare gli uccellini dai nidi. No, lo so, infatti ha detto adesso mi vendo tutto e mi compro un bel K. Sì, poi ne riparleremo, dai, non si dimentica la passione in pochi giorni, dai, a meno che non è successo qualche cosa, evento triste o qualcosa del genere, ma sono sicuro che lui adesso riparterà alla grande. Ok, vai Natale. Io ne ho conosciuto persone preparate, ma preparate veramente, tipo il geometra Achilli, quello che ti stavo dicendo, quello a lavorare, siamo stati anche colleghi al comune con quello. Quello era di amatore, però entrava molto in 27, entrava Antonio Di Monteoro, mi sto parlando. Sì, l'ho conosciuto in gamma, una persona preparata, come ho conosciuto anche quello Gianni Vinci, lo stesso, quello era molto bravo costruendo amplificatori, poi non l'ho conosciuto, non di persona, il figlio è conosciuto di persona, è venuto in ufficio. Ma la sirena ha danno attaccato. Ebbene Natale, cosa mi racconti? Ebbene, cuomani! Naomi! A Lucca! È vero! Ciao Riccardino, chi c'è? C'è Roberto, la sirena è partita, l'hanno chiamato pronto soccorso. Ho capito, no. A Roberto l'hanno chiamato, il pronto soccorso è partito, l'ambulanza. Ah, così è. No, quella è la sirena dei vigili urbani, che sono vicino a lui. Perché quelli della polizia fanno due turni, invece quelli dell'ambulanza ne fanno tre, sei turni. È vero. E tu perché stai parlando col baracchino preciso al mio? Eh? No, non è un altro, questo qua è quello vero, questo è il Typhoon. Lafayette Typhoon. Aspetta, anche lui si dice i miti, Grimaldi. Vedo Grimaldi, sì. Come sta uscendo questo apparato, Luca? Benissimo. No, ma che cos'è Natale? Aspettano a noi, che entriamo e iniziamo a rompere le scatole, capito? Solo quello. Master, sei tu? Caffa di Cassino, tornato in patria. Dall'anteguerra non ti sentivo. Hai chiamato per quella cosa, mi? Capo, ho chiamato ma sono arrivato in ritardo perché avevo voluto una serie di cose da fare e non sono riuscito. Anche il cane si è incavolato. Ciao Master, troppo, era un affare. Capo, mi è fuggito. Ma io ho idea che ci sia più di qualcuno che non mi sente. Natale, senti a Master. Negativo, basso. Master, fai un passaggio e mi dai anche a me un controllino rispetto a prima come mi ascolti. Cappa, mi devi rifare il passaggio perché per sentire l'andamino ho dovuto amplificare. Adesso mi metto a zero, fai il passaggio e te lo dico. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. La radio bella presente, pulita, praticata mi sembra, e il segnale la bomba, c'è sempre 9.30, 9.35, 9.40 così. Ok, va bene, grazie. C'è anche Robertino che l'ha chiamato l'ambulanza. Ah, Robertino, che problemi c'è con l'ambulanza? No, nulla, ho sentito anche Luca, giusto? Ma forse neanche Luca mi sente, perché non deve essere a casa sua. È Breco col buongiorno. Breco col buongiorno, chi è il buongiorno? Ah, sì, Barracuda, stazione mobile. Buongiorno. Ciao Barracuda, ben ascoltato. Ti sento basso basso, comunque ti tiro fuori. Sono qui a te. Sono la zona più alta del mare. Ma c'è qualcuno che ascolta Barracuda? Io l'ho ascoltato basso basso, ma lo ascolto. Com'è possibile? Ascolti Barracuda che è in barra mobile e non ascolti Master? Questi sono i misteri dell'etere. E cosa vuoi che ti dica? Lo sai che questo apparecchio addirittura è più sensibile di quell'altro piccolo che ho? E ho sentito addirittura a Claudio da Muros che con quello piccolo non lo sento. Avanti! Brecche! Smil Brecche, mi questa è Gianni doppio rum. Ciao Gianni, buongiorno. Ciao Natalino, a parte di Gianni, ciao. Ciao Giulio. Purtroppo non sono, diciamo, tanta trasmissione. Ciao Antonello Barracuda. Buongiorno Giulio, ben sentito. Qui stazione mobile, zona più alta. Positivo il capo Roger. Come Master. Vai a cuccia Luca, vai a cuccia che sta parlando Antonello. Ma che un cane gioco. Beh, da chi saga? Ma se in cane è una cuccia, non è cristiani. Sto scherzando naturalmente. No, c'è Antonello Barracuda che è in barra mobile con l'antenna magnetica. Santiago 7 mi arriva qua. Avanti Antonello. Buongiorno Giulio, buongiorno Barracuda, no qua. La posizione del tiratorio tutti completamente sotto scala, la ruota, non se ne per nessuno. È una zona per modulare, avanti con la ruota, poi parte tre parti e mezzo di apparato di scuola. Poche tre tende, dai, comunque qua riparte una bomba tutti. Tutti è sotto scala, tutti sotto scala la parte mia. Ok Antonio, aspetta che ti mando Luca che è appena entrato, che gli ho detto di andare a cuccia e si è quasi offeso. Vai Luca. Luca. Offeso scemi. Luca Rie. No, non mi offendono così poco io, ci mancherebbe. No, è che non sento nessuno, sento solo voi e boh. Se c'è qualcuno che parla non lo sento. Spero che a me mi senti. A te sì, forte e chiasso. Bene, anche tu forte e chiasso. Ma non mi arrivi due a me. E beh Natalia, allora questo baracchino che cos'è? Mi è arrivato ieri, mi è arrivato. Pensavo che mi arrivava il giorno 5 perché c'era scritto il giorno 5 e invece mi è arrivato ieri. Anche quella colonnina che avevo ordinato mi doveva arrivare il giorno 3 e invece mi è arrivato tutto ieri. Un cabello bello. Meglio così, oh Natalì, meglio così, no, esce molto bene. Cos'è un superstar? È il Superstar 3009, però è quello bloccato, quello omologato. Non si muovono i canali e né nulla. Cioè 40 canali solo. Lo tengo questo qui omologato perché devo tenere questo. Perché l'altro era qua. Adesso o lo metto in macchina o ce lo butto nel cassonetto. Ok, dai, va bene quello Natalia, Puglia, cosa tanto di altro cosa te ne fai? E per andare in altri canali, ma cosa di una futi, siamo sempre qua, va benissimo, anche è molto bello del radio anche, per cui va benissimo così, non c'è problema, figurati. Alla grande, lascialo stare originale così e non hai problemi. almeno io credo che sia così, per cui te lo base va a stare a modificare, a fare, dai, vuoi te, lascia stare che va benissimo. Va bene, dai, facciamo girare per Antonello Barracuda. Antonello. Così dicono, poi non lo so, bisogna vedere come si mette, non lo so Antonio. Sì, va benissimo, io ripeto, Natalino lo sento bene, tu lo senti bene e tu sei lontano, non sei lì dietro, per cui va benissimo così. Non hai sentito Natalino cosa ha detto Antonello? Natalino! E un attimo, stavo parlando con la 50, giù. Mi stava dicendo delle piante perché gli ho messo il coso per il bastone per crescere dritta, gli ho messo e dice che stanno attaccando e tutto, vuol dire che avrò anche il pollice verde. Luca, ti sto chiamando in frequenza. È perché mi sovramuduli, cuocuomane. Ma di tutto tu sei un cuocuomane, mettiamolo ben in chiaro. No, tutti quelli che abitano a Filighetto sono cuocuomani. No, Luca deve essere impegnato, deve essere. Luca, ci sei? Natalino, mettiamolo ben chiaro, anche tu abitavi a Filighetto, anche tu quindi sei un cuocuomane. Io sono più cuocuomane di te. Meno male se sei riuscito a dirlo. Ti immaginai Gigi. Tu gli hai detto che tutti quelli di Filighetto, ma tu adesso non sei a Filighetto, dunque magari se fosse stato a Filighetto un segnale sarebbe stato qui molto, ma molto però più alto. Comunque sì, nove abbondante, dai, è buono Natalino. Hai sentito che Antonello Barracuda cosa ti ha detto, che ti sente benissimo a Ussi, si sente molto bene anche a te. Vai Antonio per Natalino. E questo apparato da 3 watt mi la portante muta da 3 watt, quando parli se ne sale a 4, da. Sto usando un MB+4, ma è normale questo qui e non è che amplifichi molto. Ma no, adesso ascolto benissimo, l'altro è tutto come se si apprende, se si ascolta bene, naturalmente fare un consiglio in tranquillità, ma più che attento, non ti fai sentire come se stai sempre molto bene, non c'è nessun problema. Avanti, Riccardo. Bah, Riccardino si sarà allontanato. E ti ringrazio del controllo, che esco bene. Questi escono tutti bene gli apparecchi. Ma anche col microfono normale dice che esce bene. Io gli ho messo questo MB+4, magari esce, amplifica un po' di più, ma non molto, perché è normale come microfono. E modifica non ce n'è qua, gliel'ho tolta. Voglio essere normale, non si sa mai. Sono qui, bello bè. Ti ha rilanciato Antonello. È un po' bassino, lo sento, è a tratti. Perché in barra mobile è quello. Dipende perché in barra mobile. Avanti, giù. Ok, e poi c'è anche propagazione per giunta, quello. No, io lo sento bene, Santiago 7 lo sento, va benissimo, dai. poi deve considerare che è con la magnetica, mi non è con l'antenna fissa in macchina, lo fa la magnetica, per cui un po' perde, ma va bene ugualmente, va bene ugualmente. Lasciala attrezzare anche Antonello, poi vedrai come arriva qua, come ai vecchi tempi, intorno ai Santiago Novo sempre mi arrivava 9-5, quando abitava nell'altra casa, per cui già si riprende, vero Antonello? Assolutamente yes, si conferma, guarda che come dicevo la casa, scusate Bianco per me. Sì, no, ma poi c'è anche propagazione, che è un pochino più forte di te anche, per cui in certi momenti magari dà un po' di fastidio, però si sa com'è la propagazione, darebbe fastidio a chiunque, anche con segnali fortissimi darebbe fastidio lo stesso. Però, ripeto, Santiago 7 è buono, considerando le condizioni in cui stai uscendo, perciò va bene, dai. E poi sempre una quindicina di chilometri da dove sono io ci sono, forse anche di più. Va bene, dai, vai Natali. Mi ti ho mandato la fotografia già, giù. C'è anche il rosometro sopra, a vedere se va bene. Mi dirai, te l'ho mandato su WhatsApp. E adesso è arrivata, proprio in questo momento è arrivata la cosa. Il messaggio su WhatsApp. Adesso lo guardo Natali, ma l'hai preso nuovo o di seconda? No, oh, nuovo l'ho preso, infatti non lo apro neanche per aprirli da LC, perché se no perdo la garanzia, minimo, capito? L'ho preso nuovo. Va bene Natali, anche così va bene, non c'è problema, che te lo può fare appena, va bene, io ci sento bene, la verità, per cui poi non so, ci sarà qualcuno forse che non riesce a sentirti bene, però io ci sento bene, qua, ripeto, Santiago 9 va più che bene, il segnale è discreto, la radio è lo stesso discreta, per cui problemi io, perlomeno io non ne ho. Poi naturalmente se arriva a propagazione alle 9:10 è chiaro che non posso sentire, ma in questo caso nemmeno tu sentiresti a me se ci fosse una propagazione così alta, ci mancherebbe altro, perché lo sappiamo che l'effetto della propagazione è devastante per quanto riguarda il coesione locale, è normalissimo, no? Va bene, dai, avanti Antonello. Ciao, chi mi ha chiamato? Ok, c'è stata un'altra persona che ha chiamato, avanti, chi era? Ok, ciao. ciao Franco. Sì, Natalino, c'è Antonello, poi c'è Riccardino che si è allontanato per un attimo. C'è Luca, c'era Luca, ma non lo so, forse stava facendo qualche lavoro, forse sta riparando qualche telefono, qualche computer, per cui non abbiamo richiamato, ma non si è presentato. Vediamo, adesso lo chiamo di nuovo. Attento Luca. No, non riprende, si vede che sta lavorando, Già lo sentiremo più in là. Sì, va bene, ma Natalino già lo senti, io fra, al nuovo baracchino, per cui dovreste sentirlo abbastanza bene anche. Sono tornato. Ciao Franco! Saluto anche io, ciao Franco! Ciao! Sento come una portante, mi copre a Franco giù, cos'è che stava dicendo Franco? Facci da ponte! Ha detto che ti sente discretamente. Sì, Franco sta uscendo basso, ma evidentemente sta usando un baracchino da 2 watt, non di più. E perché c'è una leggerissima alternata anche in quel microfono. Non so se è dovuta al fatto che c'è la preparazione o meno. C'è una leggerissima alternata, la modulazione è bassa, è per quello che Natalino forse non ti copre per quello, bene. Vai fra. Va bene, dai. Poi c'è anche Antonello, mi sembra che ha detto che non lo senti, comunque adesso vediamo un po', adesso già risolve Franco e così sicuramente ascolterà meglio e si farà anche sentire meglio. Avanti Antonello, dove sei tu? Il campo di calcio c'è Antonello, lì in quel posto. Antonello Barracuda, Antonello si deve essere allontanato un attimo perché non lo sento, non lo sento. Avanti Riccardì, già ne stai facendo poco di mafia, sì, con quella radio. Immaginati tutti per dirti che questa è originale, non gli hanno tagliato il diodo e sta uscendo con pochi watt. Ok, un attimo. Avanti Giulio, Natalino, mi ascolti meglio adesso? A voglia, è che questo apparecchio da 3 watt, quando parli se ne sale a 4, più di quello non dà, perché è omologato e non lo voglio toccare, è nulla, perché lo voglio lasciare omologato, dà, per il momento. Sì, ma fai bene Natalia a non toccarlo, perché sta uscendo molto molto molto bene, sta uscendo. Sì, poco fa stavo uscendo con un baracchino, stavo uscendo, non... c'ha solo 2 watt, c'ha quello là, niente di più. Ok, avanti Riccardino, buonasera, anzi buongiorno. Sì, buongiorno, sì, non è ancora sera. Va bene, comunque non so chi è entrato, anche perché mi sono allontanato un attimo, se mi fate un attimo un riepilogo. Ci sono io. Io, poi ci sono di nuovo io, ancora io, poi c'è Antonello Barracuda da Ossi, Franco da Sorso, Natalino da Sassari e poi ci sei tu Riccardì, ci sei anche tu, avanti. Ma non ci posso credere, ci sono anche io, da quanto è che non lo sentivo? Comane di Riccardino. Sì, tu sei re dei cuocomani, non te l'hanno ancora data la corona. Ah, inteso rai giù, ah. Vai due a pella, ravammi. E poi mi sei annullato, Natalì, così sentito, Fatelo per immaginare. Beh, d'arzillo è proprio me. Caro Billy, ah. Con tutta la voglia che ha di parlare, già lo credo che è arzillo. Avanti Franco. Cappa, vedi? Piano piano stai salendo, E sa che ti ho già inserito, altro che. E mi credi che sì, o sei andato via? No, sono andato via. Vabbè, allora va bene così, Quindi tu, allora, visto che sei andato via. Adesso solo perché mi ha detto così, vado a casa e gli metto la portante. No, vai in macchina sotto casa sua direttamente, Natalia. Ma rispetto non lo fai a lui, rispetto lo faresti a lui. Ma a campagna, vado in campagna e gli metto la portante, gli metto. Vabbè, mica la metto su 24 metri di palo che ho la disponibilità e ti schiaccio. Oh. Adesso vengo lì e ti metto un chilo di tritolo sotto il palo dell'antenna. Natalie, oh, assicurati quando vai sotto casa sua che non abbia qualche lineare grosso che ti bruci tutto. O che abbia fusile, mi diria. Ti spacco, metto un lineare da 100 kW e ti spacco, ti salta in una macchina. Oh, a uno gli allena sul stesso, si è bruciato tutto. E avvicino rubaba e scendi. Roba di fumo. La fumata bianca, ha visto. Sì, gli ha mandato in trasmissione lineare e se gli è bruciato tutto. È andato sotto a casa di una certa persona e l'ha bruciato tutto. Lo so, Cucareggio. Avanti, giù. Giulio, c'hai la radio sporca. E di passare educa tua che cosa giù. Giulio, ti serve un po' di CRC? Se vuoi ho anche la trielina. No. Non si capisce niente, Giulio. Aspetta che ancora lo vuoi. Se eri tu non sei uscito. Vabbè, dai, come non sei uscito? Pulisce ancora un po'. Ancora un pochino, così, almeno meglio. Vai ancora. Ancora. Così, così va bene. È trappata giù. Vabbè, non so come ti ascolta Natalino, ma io ti ascolto male. È strappata, a uno lo devi mettere quella roba. Aspettate che mi ascolto, che devo mi dire solo, eh. E K. Tutto un colpo si è sporcata, stava uscendo bene. E infatti, ma noi si è caricata la batteria e va all'MB più 4 attaccata in Kivin. Ma Natalie, ma tu non ci avevi il Lincoln anche, ci avevi una volta. Ha comprato anche un nuovo, l'altro mi ha venduto, te l'avevi. No. Peccato che non c'ho il tuo numero, se no te l'avrei detto. Natalino! Oh! Pronto, tra un mesetto metto l'antenna sopra casa, 10 metri di palo, più la casa è alta 4 metri, e più metto l'antenna da 7 metri, ma non c'è più per nessuno. Mica salgo a campagna e ti metto la portante, fai da bravo. E ti metto il lineare da 1 kW. Se senza lineare te la metto e non parli con nessuno, se ti metto la portante io, che siamo troppo vicini. Se arrivo a fondo scala a coso, a Claudio arrivo da casa, da campagna, siamo troppo vicini. Io è che non ci posso andare, se no l'avresti visto come arrivavo da lì. Ma come si avvicina a casa? Vedo la macchina saltare in aria, il baracchino in fiamme, eppure il lineare. Ma io mi porto il fucile a pompa e ti sparo l'antenna, amico. a palla, a ballasola, mi. Bello me, mica attacco la direttiva e ti sparo lo stesso. A te l'immagino. E prenditi il ricadino. Mi sentite là la 50, ho già detto. No, non l'ho sentito, c'è mamma con la macchina che se la sta spostando e non ho capito cosa ha detto. Ha detto difenditi Riccardi, invece di difendere a me, difende a te. Boh. Meno male. Ah, Riccardi. Cosa c'è? Cosa ti porti appresso? Cosa c'hai acceso lì? K43 più 2. K43 più 2, cosa sei da Bellini? KPS430 e un turner più 2 da tavolo. Ma oltre a quello che stai usando, cosa c'hai acceso? Si sente tutto, sente dei rumori. È la macchina di mamma, è un turbo diesel. Ah, sì, si sente in ghiaccio. Adesso si sente meno, vero? Adesso sì. Sì, è un turbo diesel 6000. Hai fatto tutto questo rumore? Sono tornato. Si fa sentire. Avanti Giulio. Sono tornato. La batteria del microfono è un po' scarica questa. Vabbè, ce l'ho qualche annetto. Devo cambiare, dai. Ma per il momento già sta andando, dai. Ok. Avanti Natalia. Me l'ho sospettato che era la batteria del microfono. Cosa c'è attaccato? L'MB più 4? Sì, è quello, sì, infatti è quello. È per quello appunto che bisognerebbe sostituire la batteria, anche perché quando l'ho messa, siccome ce l'ho già un paio d'anni questa batteria, è anche ossidato il contatto, i contatti che ci sono, no? Quella dell'overvolt. Infatti l'ho dovuto prima raschiare per poter fare contatto bene, ma vuole cambiato, dai. Ma fin quando non mi mettono in libera uscita con questo fatto del virus, certe cose possono anche andare male. Giulio, ma sei tornato o sei tornado? Tornado, adesso passo dalla tua parte e te ne butto l'antenna, perché do una bella soffiata e ti butto giù l'antenna. Ma bello beh, mica se mi butti giù l'antenna ne ho di scorta, te la tiro fuori. Ma quando è per terra non rende molto, quando è per terra non c'è problema. Vediamo se è rientrato Antonello da Ussi. Antonello, ci sei? C'è problema, il dipolo, la direttiva, il discone, la mini grand plane, il dipolo filare e la Sirio Blizzard, non c'è problema. Anch'io ho il discone, i disconi anche, ho anche i dischi di Claudio Villa, pesa un po', ho i dischi sassaresi, di tutto, Cerentano, Nota Rumbasa, lo conosci tu il cantante Nota Rumbasa? No, non lo conosco. No, Edar già conosci, Nota Occese. Ah, lo conosci il cantante Nota Rumbasa, bobo, ma che sassaresi sia, si può sapere. Vabbè, non so che se te, non so che se quel 39, che se lo tocchi non so che se. No, non lo conosco, se sarei lei, vabbè. Dai, è andata lì, ma te immagini che lo conosci il cantante Nota Rumbasa. Lui conosce non so che se. Giulio, dimmi. Ehi capo, dai, vi saluto che passo un'altra frequenza. Ci sentiamo, ciao Natalino, ciao Robertino, metterò da fuggire. E niente, ci sentiamo Giulio, alle prossime. Ci sentiamo, grazie per la chiacchieratina. Vai Riccardino, Robertino, vai per Franco che sta chiudendo. Ciao Franco, alle prossime. Io sono Robertino per voi. Appunto io come ti ho chiamato, Riccardino e Robertino. Ti ho detto tutti e due i nomi, non sei contento, vai Natali. Ciao Fra, alle prossime. Grazie per la chiacchierata. E buon proseguo. Avanti. C'era Roberto ed è scappato, boh. No, sono qui. Già è lì, già. Natalia è lì, Roberto. No, tu sei Robertino, non sei Roberto. Robertino, Roberto, Roberto non c'è, è uscito, è andato a farsi un giro. Ma se io le apprezzo le migliori alle vostre, devo salire il livello, mica Robertino, Roberto, Robertone. Riccardone ti chiami tu. Roberto, ma veramente non ci sei o sei in ascolto, Roberto? Roberto non che quadrato? No, non c'è, deve essere che si è allontanato, dai. Si è allontanato, l'hanno chiamato, l'hanno, e si è allontanato. L'hanno mandato a comprare la mortadella, Antonella, cioè Natalie, l'hanno mandato a comprare la mortadella, per quello che non c'è. Infatti. No, mi ha detto che forse andava a farsi un giro. A farsi un giro, e a proprio burrio.